Sicuramente questi disturbi peggiorano la qualità di vita. Perché si avverte anche un senso di stanchezza, cala il piacere di fare le cose, facciamo fatica a concentrarci, insomma il naso che cola e gli occhi che lacrimano ci mettono davvero KO. Ci sono persone che sanno di essere allergiche e quindi hanno fatto chi ha desiderato il vaccino, altre che scoprono di esserlo proprio oggi, quest'anno, in questo mese. Ci sono altri segnali che possono farci capire che l'allergia ha scelto noi. Ad esempio, dottor Landi, una gita fuori porta che lascia il segno, ad esempio, anche sulla pelle. Certamente. Questo è un mese in cui, dal punto di vista delle allergie, i nodi vengono al pettine, e se è il primo anno in cui il paziente ne soffre, effettivamente può capitare che una scampagnata, magari soprattutto per esempio nel caso dei bambini che poi corrono nei prati, anche il semplice strofinarsi con l'erba alta, magari ancora non tagliata, può dare delle irritazioni cutanee, oppure magari senso una raffica di starnuti. Una raffica di starnuti, la tosse, sono cose che in un bambino possono capitare, nell'adulto certamente ci può essere forse più la tosse e la starnutazione, sono i sintomi più frequenti. Ecco, leghiamoli al momento. Questo è un momento delicato, per cui se questi sintomi compaiono, ad esempio, anche per la prima volta in questo periodo dell'anno, attenzione, come ad esempio, dottor Landi, anche la mancanza di fiato. La mancanza di fiato è in generale già una, come dire, una spia di allarme di una compartecipazione che può essere una compartecipazione tipo bronchiale, per cui la tosse può essere un equivalente di una componente asmatica, ecco. È motivo di attenzione, è motivo di consulto medico, certamente, insomma, ecco. Poi, per carità, magari è semplicemente una tosse irritativa legata all'allergia, però in generale ecco, questo insieme di sintomi che capitano proprio per coincidenza proprio in questa stagione, ecco, deve farci rizzare un po' le orecchie. Assolutamente sì, tant'è che per le allergie stagionali per le allergie stagionali spesso la diagnosi la fa già, quantomeno il sospetto diagnostico ovviamente arriva dal paziente. Vede quanto siamo bravi. Allora, il paziente ha sospetto di essere allergico, però siamo a maggio, va dal medico e che cosa succede? Dunque, se è il primo anno che scopre di essere allergico, siamo obbligati ad avvalerci unicamente della terapia medica, che si basa sostanzialmente su due farmaci fondamentali, che sono gli antistaminici di seconda generazione ed eventualmente i cortisonici nasali, o in qualche caso, ovviamente, se c'è l'asma, possono essere utili anche quelli bronchiali. Però diciamo che l'antistaminico è, nella stragrande maggioranza dei casi, il primo approccio terapeutico, e ovviamente in generale funzionano anche molto bene. È chiaro che il benessere del paziente è dato da un insieme di cose, per cui è dato ovviamente dai farmaci a nostra disposizione, ma è dato anche dal sapersi comportare in questa stagione. Il bollettino dei pollini ce l'hanno tutte le agenzie dell'ARPA, sì. L'agenzia per... Quindi importante però è capire a che cosa siamo allergici. E qua apriamo e rapidamente poi chiudiamo un'indicazione per i nostri ascoltatori. Allora, quali sono i test che permettono, se si possono fare adesso, quando l'allergia è già scoppiata, e quali sono i test che ci permettono di fare correttamente diagnosi? Il test più semplice da fare e tra l'altro anche il più diagnostico sono i classici test allergologici, i cosiddetti prick test, che possono essere fatti in qualsiasi stagione dell'anno, a qualsiasi età evidentemente. L'unico accorgimento, se il paziente è già in terapia antistaminica, si consiglia prudenzialmente di sospendere la terapia antistaminica nei tre giorni precedenti agli esami. Ecco, però molti dicono che durante la stagione non si possono fare, non è assolutamente così. I test possono essere fatti in qualsiasi momento dell'anno. Ecco, mentre si possono fare anche naturalmente ai bambini? Certamente. Mentre per il vaccino ormai è tardi? Per l'immunoterapia specifica sì, perché quasi sempre le terapie per quanto riguarda i pollini sono di tipo precostagionale, per cui si dovrebbe iniziare nei mesi scorsi, quindi tipo febbraio-marzo, e si fa anche durante il periodo stagionale, quindi iniziarlo adesso si rischia che l'efficacia sia tutto sommato ridotta, per cui visto anche l'impegno in generale di doverlo assumere tutti i giorni, certamente va iniziato un po' prima, quindi bisogna poi pensarci per l'anno prossimo eventualmente, ecco. Dottor Landi, quindi occhio a questi segnali, ripetiamoli rapidamente perché vogliamo dare ai nostri ascoltatori la possibilità non di farsi autodiagnosi, ma recarsi magari dal medico, di fare due chiacchiere col medico di famiglia. Se in questa stagione, magari quest'anno per la prima volta, avvertite una serie di sintomi che sono il naso che cola, gli occhi che lacrimano, la mancanza di fiato, una particolare stanchezza, o avete sulla pelle dei segni che sono ponfi, arrossamenti, prurito, parlatene con il vostro medico. Ho tralasciato qualche segnale, dottor Landi? No, direi assolutamente. Promossa? Sì, promossa. Promossa. Va bene, grazie dottor Landi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati. La bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. E continuiamo a parlare di allergia, consigli per gli allergici. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Mauro Mocci, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Dottore, a proposito di ambiente, ci sono delle indicazioni che vogliamo dare, possiamo dare a chi si confronta con tutta questa sintomatologia di cui abbiamo parlato prima con il dottor Landi, e che può fare delle scelte più oculate per non farsi proprio mettere KO dall'allergia. Certo, per chi sa che è allergico deve seguire alcuni consigli che noi diamo, per esempio evitare di uscire all'aperto quando si vogliono fare delle passeggiate o delle corse, evitare le ore più calde, perché sappiamo che nelle ore centrali più calde le pollinosi aumentano. Certo. Quindi preferibile andare a passeggio la sera col fresco, e se possibile chi vuole correre lungo i fiumi. Si è visto che lungo i fiumi c'è una riduzione della concentrazione di polline. Sì. Perché c'è un sollevamento dell'aria, quindi fare attività di jogging, chi può permetterselo? Sono fortunati gli allergici che vivono vicino ad un fiume. O arriva al mare, ovviamente. Certo. Lungo il mare c'è sicuramente meno pollinosi, così come in alta montagna. Quindi chi può permetterselo dovrebbe scegliere questa soluzione. Poi altri consigli che diamo per togliersi di dosso, oltre che il polline, ma anche le sostanze inquinanti che poi peggiorano la sensibilità al polline, perché spesso sono loro che irritano le mucose e le rendono più sensibili ai pollini, perché ovviamente se le mucose si irritano, come per esempio succede dopo aver fatto degli sforzi o dopo aver bevuto dell'alcol, si possono un pochettino irritare e diventano più sensibili. Allora consigliamo di fare dei bei lavaggi nasali con una soluzione fisiologica, in modo che si pulisce la mucosa nasale, e lavare anche il corpo, lavare i capelli. Ecco, i capelli, perché i pollini si intrappolano. Certo, si fermano lì, e se noi abbiamo il polline sui capelli, durante la notte ce lo continuiamo a respirare. Quindi una buona regola è rientrando a casa farsi una bella doccia. Farsi una bella doccia. Sciacquare bene i capelli. Sciacquare poi i capelli. Usciti dalla doccia, un bel lavaggio nasale. Sì, esatto. Mamma mia, tutti questi lavaggi. Essere e benessere. Ecco, ci siamo tornati insieme, in linea con noi c'è il dottor Mauro Mocci, medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Dottor Mocci, ancora in linea? Sì, eccoci qua. Ecco, oggi consigli di buon senso per le persone allergiche, per muoversi nell'ambiente e per cercare un po' di ripararsi, di schermarsi dall'effetto dei pollini. Abbiamo sottolineato l'importanza delle docce e di lavare i capelli proprio perché i pollini possono rimanere intrappolati. Abbiamo aggiunto naturalmente il lavaggio nasale, ma a proposito di capelli, anche i peli dei nostri animali che entrano e escono da casa possono essere portare i pollini. Che si fa? Certamente, anche per i nostri cani e per i nostri gatti bisognerebbe lavarli e pulirli, perché altrimenti ci portano dentro i pollini e ce li distribuiscono durante il giorno per la casa. Lavare anche e stare attenti agli indumenti, le lenzuola per esempio, se vengono stese all'esterno, sotto piante col polline, ce li portiamo dentro casa, quindi è preferibile. Quindi meglio stenderle a casa. Dentro casa. Un'altra attenzione che va fatta è pulire gli occhi, detergere gli occhi, anche lì un po' di soluzione fisiologica. Chi per esempio porta le lenti a contatto dovrebbe o evitare in quei giorni oppure cercare di pulirli, perché il pollene si appiccica e quindi irrita la congiuntiva. Quindi dottor Mocci, per chi mette le lenti a contatto in questo ed è allergico, in questa stagione, per questi giorni, meglio l'occhiale normale. Se può evitare è meglio, però se proprio non può evitare, fare una detersione delle lenti un po' più frequente. Dottor Mocci, vogliamo dare anche qualche indicazione, consigli per le persone che sono allergiche, fanno magari dei viaggi, hanno molto in macchina? È questo. Ecco, lo sapevo. Perché io sono, lo ripeto spesso, è il problema dei filtri. Sì. Sia per chi viaggia, ma anche per chi rimane in casa. I filtri dei condizionatori, nel caso di chi rimane in casa, ma i filtri delle macchine, perché se noi non cambiamo i filtri o non li laviamo quando si possono lavare, i pollini che vanno ad annidarsi lì ci vengono spinti dentro l'abitacolo e noi continuiamo a respirarli e ci vengono addosso. Allora dobbiamo sostituire i filtri o lavarli, sia quelli dell'automobile che quelli di casa. Quando siamo in percorsi alberati è preferibile chiudere il bocchettone, non far entrare l'aria da fuori, ma far ricircolare l'aria che abbiamo dentro la macchina, sapendo, essendo sicuri di aver sostituito i filtri e che siano puliti, perché altrimenti è un continuo rigettare addosso di pollini. Questi sono consigli diciamo importanti, sembrano da poco, ma sono alla fine importanti, perché i soggetti allergici anche con pochi pollini stanno sicuramente male. Quindi se le seguite alcuni dei consigli che vi ha dato il dottor Mocci, sicuramente un po' siete più schermati, possiamo dire così, dall'aggressione dei pollini. Fanno meno male. Fanno meno male. Grazie dottor Mocci per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a voi. Allora, l'ambiente lo dobbiamo tenere un po' sotto controllo, consigli di buon senso, ma che cosa possiamo portare a tavola in questo momento particolare dell'anno se l'allergia ha proprio scelto noi? In linea con noi abbiamo il dottor Marcello Cottini, allergologo, immunologo, clinico e pneumologo. Dottor Cottini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottore, allora, innanzitutto le persone che sono allergiche potrebbero, anzi dovrebbero forse eliminare alcuni alimenti. Iniziamo a vedere gli alimenti da eliminare in questo periodo e poi invece andremo a scoprire gli alimenti che invece possiamo e dobbiamo consumare con più frequenza, specie in questo periodo dell'anno. Gli allergici infatti possono essere particolarmente sensibili ad alcuni tipi di alimenti. Sì, essendo in pieno boom pollinico di betullace, corilace, obiettivamente il soggetto che presenta questa sensibilizzazione verso pollini può avere una sensibilizzazione secondaria legata all'assunzione di cibi che reagiscono, sono cross reattivi con gli allergeni presenti nei pollini. Ad esempio è famoso il caso degli allergici alle betulle, che hanno dei problemi di solito al palato, al cavo orale, mangiando gli omologhi del BET-B1, delle proteine, le PR10 presenti ad esempio nelle rosacee, la mela, la pesca, la ciliegia, l'albicocca, ma anche è possibile avere problemi col sedano, con la carota, la soia, l'arachide, ecco. Di solito sono allergeni termolabili, gastrolabili, per cui il fastidio è limitato al palato e momentaneo. Il consiglio però assoluto è di evitare soltanto gli alimenti a coloro che presentano il disturbo, questo deve essere chiaro, certo. Mai in base a aver letto magari della problematica delle reattività crociate, evitare alcuni alimenti perché siamo sensibilizzati alle betulle. E quando però ci accorgiamo del problema, l'alimento va cotto, si può utilizzare la strategia dell'omogeneizzato, eccetera, e eventualmente anche evitato. Quindi se io sono allergica alla betulla e mangiando una mela avverto tutto un prurito, un fastidio in bocca, allora mi può venire in mente che c'è un'allergia crociata. A quel punto, secondo me, si può anche limitare, anche se una mela al giorno le va al medico di torno, sì, anche se non la mangio per un mese, penso che no, posso scegliere altra frutta, ma nel caso proprio volessi la cuocio e cuocendola il problema si annulla. In qualche caso anche può esserci implicato un altro panallergene, le profiline, e quindi il soggetto può avere dei problemi anche col melone, l'anguria, l'ananas, anche quello generalmente un problema limitato all'apparato. Limitato. Invece, dottor Cottini, ci sono delle indicazioni che arrivano da degli studi riguardo agli alimenti da consumare con regolarità e soprattutto con una maggiore frequenza proprio in questo periodo. Parliamo sempre delle persone che si confrontano con i sintomi di allergia e che in questo momento, proprio per ridurre questo fastidio, magari assumono anche farmaci. Il dottor Landi, che abbiamo avuto prima ai nostri microfoni, diceva ad esempio, parlava di antistaminici. Ci sono delle indicazioni che possiamo dare agli allergici che ascoltano Essere Benessere? Sicuramente. Me li tratti bene, eh? Sì. Sicuramente l'asmatico è quello che ha più dati a sostegno, sia per un effetto benefico che negativo di alcune diete. Sicuramente il soggetto asmatico, che è in terapia, ha una patologia del bronchiale, dell'apparato respiratorio, quindi deve curare una crescita adeguata dei suoi volumi polmonari, della sua funzione respiratoria. E qui sappiamo da tempo, già dalla fine del secolo scorso, che un'alimentazione povera di frutta e vegetali correla con una ridotta funzione respiratoria. Questo è stato fatto soprattutto in bimbi adolescenti, quindi ma vale tradotto anche per l'adulto. Tradotto in positivo, se avete l'asma mangiate molta frutta e verdura. Soprattutto se avete l'asma e aggiungete dei fattori di rischio legati allo stress ossidativo, quali l'inquinamento ambientale, che è potente antiossidante, il fumo attivo, ma attenzione anche passivo. Ampia letteratura, abbiamo ormai a sostegno che lo stress ossidativo gioca un ruolo anche negli effetti negativi che il fumo gioca sui polmoni. Passivo, certo. I polmoni, anche se viene inalato in maniera passiva. Certo. E, dottor Cottini, quindi frutta e verdura, tranne quella verso cui si ha un'allergia crociata, quali altre indicazioni emergono dagli studi per suggerire ai nostri ascoltatori? Ci sono degli alimenti, dei superalimenti che possono aiutare? Sto pensando alle persone che stanno assumendo ad esempio antistaminici. Ci sono degli alimenti che possono essere particolarmente suggeriti, indicati? Ma sicuramente alcuni emergono. Ad esempio, abbiamo parlato della mela al giorno. Se il paziente non è un allergico alle betullacee con reazioni crociate, la mela ha dei dati notevoli al suo sostegno, soprattutto con un flavonoide molto importante, la quercetina. Sì. Tra l'altro la mela, non dimentichiamo che è assumibile a chilometro zero senza far ricorso a... e quindi è ampiamente fruibile in molte stagioni dell'anno, questa quercetina è sicuramente, che tra l'altro ricordo sia presente assieme al resveratrolo nell'uva, nel capro, eccetera, quindi questo è un potente bioflavonoide. Un dato interessante: non tutte le forme asmatiche sono allergiche, e le forme non allergiche sono di difficile controllo. Pensiamo a quelle più che noi chiamiamo poco sinofilo neutrofilo, quella del fumatore, come la chiamate? Virus, no, neutrofiliche vengono chiamate. Pensi che uno dei pochi alimenti che sono stati testati hanno un potere sull'infiammazione non eosinofilica, paragonabile a quello dei farmaci, è il licopene del pomodoro. Magnifico, dottor Cottini. Un pomodoro? Ci mettiamo anche un filo d'olio extravergine d'oliva? L'olio d'oliva favorisce a livello intestinale l'assorbimento dei carotenoidi, e il licopene è uno dei principali, ma anche della luteina, e con questa il licopene sembra agire sinergicamente, quindi come da dieta mediterranea classica, pomodoro, e pomodoro è una... Pomodoro è un filo d'olio, una mela al giorno che leva il medico di torno, grazie alla quercitina, che però troviamo anche, come lei ha suggerito, nell'uva. Dottor Cottini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Buongiorno. E per oggi è tutto, allora io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, ma intanto vi lascio con un compitino. Mettetevi un po' nudarelli davanti allo specchio in questo weekend, trovate il tempo, e osservate nei e macchie. Io vi aspetto lunedì dopo il GR per parlarne con voi insieme ai nostri esperti. Buona giornata da Nicoletta Carbone.